Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Primo mucchio di gara di rigore, attenzione. Il cross, pallone che si impegna, arriva dalla zona di Cardi che stacca la sponda, palla che resta lì, poi Kovacic, Inter in vantaggio. Io non ho mai detto, non ho mai parlato di Roma mafia capitale. Allora se si dà a una persona il virgolettato dicendo preziosi Roma mafia capitale, beh qualcuno se ne assume la responsabilità. Allora mi chiedo, i giornali che hanno pubblicato queste... Parla uno che è stato condannato per aver parlato male di un arbitro. Ma i giornali che hanno pubblicato queste che paiono essere delle falsità ciclopiche, la fanno franca? Sempre per arrivare a Berlino bisogna sempre passare da Dortmund, no? E questo è capitato in passato e mi auguro possa capitare anche in futuro. Attualmente l'argomento non è su questa questione, attualmente è su una collaborazione tecnica, su una collaborazione dal punto di vista del rapporto personale dei giocatori con l'allenatore, perché come è stato detto c'è una franchezza di rapporti che prima non c'era. Prima però il mucchio selvaggio. Il mucchio selvaggio è quello delle cose che abbiamo oggi da raccontarvi, ce ne sono tante, abbiamo riassunte con degli estratti sonori che Franco Piantanida, il nostro autore, ha preparato così a ruota libera, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, voi al telefono 800 24 00 24, numero verde. Nella seconda ora invece Pardo sarà qui e verrà qui, a meno che non mi faccia il pacco, anche Giuseppe Cruciani, perché voglio parlare di calcio, di Olimpiadi, di eventuali Olimpiadi romane, eccetera eccetera, voglio parlare di un sacco di cose con loro e con voi. 800 24 00 24. L'Inter fa il minimo sindacale, come abbiamo sentito. Preziosi ritratta quella infelice uscita di domenica. Poi abbiamo sentito un Mughini avvelenato, abbiamo sentito Tavecchio, poi sentiremo Agnelli dare del permaloso a Conte e dirglielo sul muso. Conte che oggi ha risposto: permaloso sì, io sì, molto, sono molto permaloso, ma non mi dimetto e voglio più stage che avrà 3 giorni a febbraio. Poi c'è la Juventus e la Roma che continuano la loro sottile guerra psicologica e mentale sul web, mai così frequentato dai diretti interessati e dai protagonisti. Garcia che prende 2 giornate di squalifica perché ha dato 2 schiaffoni a uno steward nello spogliatoio nel tunnel di Genova, così pare. Una giornata anche per Allegri, tanto per gradire. Massimo Ferrero imbavagliato su Twitter, incerottato. Napoli che potrebbe vivere un Natale strano, magari di profonde rivoluzioni. Insomma, tutto questo e molto altro ancora. Maurizio Nicita, un caro amico, un importante giornalista Gazzetta dello Sport e autore di un libro che andrà aggiornato, si intitola Papaveri e Papere, è molto divertente, ma aspettiamo il volume 2 perché Ferrero non c'era. Ciao Maurizio. Ciao, buongiorno a tutti, hai ragione, ci stavo già pensando. Non ho dubbi, cioè perché Papaveri e Papere, prima edizione, adesso Papaveri e Papere, il sequel con Ferrero. Anzi, forse meglio monografia, forse potresti fare Ferrero e Tavecchio, metterli tutti e due insieme, non lo so. Aspettare il rientro di Cellino ormai imminente. Il rientro di Cellino ormai imminente. Tipo film dell'orrore, a volte ritornano. A volte ritornano. Magari torna anche Balotelli, che lo stanno provando a mandare via a calci nel sedere dall'Inghilterra con Tarabt, che è uno tranquillo che ha detto: ma Balotelli forte, ma dove? Sa solo tirare forte. E poi c'è anche Ince che dice: vabbè, prima ci hanno provato Mourinho, ci ha provato Mancini, ci ha provato Allegri, ci hanno provato tutti. Cosa volete che faccia Rogers? Prima si sbarazzerà di lui, meglio sarà per tutti. Questo è un altro fronte. Ce n'è per Papaveri e Papere. Anche Agnelli e Conte, mica male. Uno infatti, permaloso, permaloso Conte. Ma è vero, il problema è che dobbiamo cercare di riderci sopra per non piangere, come diceva il grande Troisi. Ma sì, ma perché no? Ma a me fanno molto ridere. Cioè, ma credo che sta nello spirito di Papaveri e Papere. Delle maggiori industrie italiane, il problema è che dovrebbe essere uno dei settori che dovrebbe servire più da immagine all'Italia, no? E invece vediamo che purtroppo non funzioniamo. No, no, non siamo capaci di funzionare. Non siamo capaci di funzionare, ma l'importante è comunque non perdere il senso dell'umorismo. Come ha fatto Moratti? L'Inter fa il minimo sindacale ieri sera, vince a Verona con il Chievo, grazie ad Handanovic che para, per prima cosa, perché sennò beccava gol nel primo tempo, poi ai gol di Kovacic e Ranocchia. Intanto Moratti, a proposito di dichiarazioni interessanti, manda messaggi affettuosi, baci e carezze. Ah, ma questo lo può vedere l'allenatore, da tifoso, da tifoso tu una squadra non va mai a cambiare istituto, ma io ho fatto anche il presidente, quindi non posso dire queste cose. Hai capito? Io cambierei tutto come facevo quando ero presidente, però non lo posso dire, mica male, eh? Però non lo posso dire, però l'ha detto. Siamo sempre lì, non riusciamo. La voglia di apparire poi prevale su tutto, poiché se ti chiami Ferrero fai più ridere, se ti chiami Moratti magari non fai proprio ridere, però ci vai vicino e così va. Poi uno che ha fatto ridere, ma forse più piangere, è stato Preziosi domenica, non dimentichiamo. Insomma. Sì. Sì, no, di questo perché ogni tanto proprio viene fuori, non è bello dirlo perché è luogo comune, ma da quale pulpito, porca miseria. Sì. Cioè, da uno che dovrebbe essere radiato e non lo è soltanto per un cavillo burocratico, per dirne una. No, ma poi adesso ne parliamo dopo il traffico, però anche questa storia, cioè prima io capisco la rabbia del momento, anzi no, non la capisco, perché sei comunque un personaggio pubblico che dici certe cose ad un microfono e quindi che parli da un pubblico pulpito, quindi non è una discussione da barra. Quindi dovresti pensare e contare fino a 8 prima di parlare, non lo fai, dici una cosa, poi ritratti, però non farci passare per fessi, perché è chiaro che il riferimento era quello. Fermiamoci un attimo, abbiamo il traffico, poi torniamo a parlare di questo e di altro ancora con Maurizio Nicita. Da oggi, cari signori miei, quelli che si sono comprati le penne o i registratorini per fare interviste, li mettessero dentro l'armadio, perché da oggi farò un silenzio stampa. Ma no. Tutti convocati. Può essere Andrea Agnelli a suggerire al presidente Da Vecchio qualche difetto di Antonio Conte? Forse un po' permaloso. Vedi che alla fine. Qualcuno ha avuto il coraggio di. E invece i pregi. I pregi la tenacia sicuramente, questa costante ricerca per la vittoria, ma la tenacia è sicuramente un pregio di Antonio. Dall'altra parte c'è un po' di permalosità quando gli si dice che qualcosa non va come la vorrebbe esattamente lui. Quindi questo è il messaggio diretto, perché Conte era presente, di Andrea Agnelli al suo ex allenatore. Tenace sì, ma permaloso e ripermaloso. Maurizio Nicita, dunque, parliamo di Preziosi? Cosa non dici? Manca la carne al fuoco. Ma su Preziosi, insomma, quello che il senso del discorso è quello. Era chiaro il riferimento a certi fattacci fuori luogo. Guarda, purtroppo è il solito giochino tutto italico, no? Per cui poi perdiamo ogni tipo di credibilità passate le Alpi, nella politica, nel calcio, in qualsiasi settore. Buttiamo lì la pietra e poi nascondiamo la mano in qualche modo, no? Il politico pure la spara, poi quando vede la reazione dice no, ma sono stato frainteso, perché esatto, sembra un giornalista che non capisce. Esatto. Peccato che siano registrate anche spesso le cose, no? Come in questo caso, cioè non si può tirare un macigno e poi dire no, era un ciotolino, no, la cosa era molto grave, parliamo di criminalità, parliamo di cose gravi, anche perché poi in Mafia Capitale diciamo un coinvolgimento non sotto il profilo penale, debba essere chiaro questo, di alcuni personaggi sportivi romani e romanisti, sì. C'è, come so, di frange di ultra, di tifo, eccetera, per cui mischiare le cose, shakerarle, cioè poi l'effetto è esplosivo. Allora, certo. Se da un lato si possono censurare certi comportamenti che, ripeto, sottolineo, nonostante le intercettazioni venute fuori, non hanno al momento rilievi penali, sì. È altrettanto vero. Non hanno rilievi penali, ma documentano una vicinanza di rapporto, quantomeno una conoscenza, no? Sì, i nomi li conosciamo, De Rossi, Sculli. Un attivismo, sì. Sculli, ma anche Aquilani. Anche Aquilani. Sì, Pladè, insomma. Ripeto, non è una questione di criminalizzare, però a me, al di là del fatto che fino a un mese fa fosse un cittadino libero, il solo nome di Carminati, conoscendo il passato, mi fa venire i brividi, ecco, semplicemente. Sì, sì. Poi se qualcuno invece lo frequentava e ci andava a cena, sono affari suoi. Certamente. Ripeto, non saranno rilievi penali, però mi permette almeno di capire le persone come si muovono. Ecco. Certamente, e quale amicizia hanno. Poi, sì, sì. Poi facciamo, ognuno ne trae le conseguenze che vuole, ovviamente non dal punto di vista penale. Poi c'è un clamoroso personaggio dell'etere romano che continua a dare patenti di verità a chi vuole lui, il signor Mario Corsi sulla Radio Romana, un personaggio molto legato a quegli ambienti, che ha dei precedenti e tutto, che continua a essere ritenuto una sorta di vate, sì, nell'ambito del pensiero romanista, ecco, sì, in questo senso, e anche dalla società. Questo va detto, che il marito di Rosella Sensi in questo senso mi pare risulti fra gli indagati proprio per questioni relative a Mafia Capitale. Quindi. Senti Maurizio, invece Roma e Juventus continuano la loro guerra mentale, continuano i loro mind games, usando un'espressione inglese che a me piace molto, usando le nuove tecnologie. Oggi Luca Valdiserri sul Corriere della Sera nota come su Facebook e Twitter sono spuntate in tempo reale le immagini del corner di Marchisio che ha portato il gol di Evra con palla fuori dalla lunetta. Poco dopo è arrivato il dito medio alzato da Ciò Leva sei tifosi del Genoa a fine partita, notato anche dal quarto uomo, il difensore rischia una multa e da una multa a una squalifica. Poi sui social media sono arrivate le immagini del fallaccio di Vidal su Duncan non fischiato da doveri, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sarà un macello e sarà continuamente. Sarà un macello così, secondo te? Macello mediatico di social, sì, network in questo, sì, senso, sì, macello, perché poi sì, sì, ognuno strumentalizza. Vabbè. Avviene poi in politica, ripeto, secondo me il calcio è sempre la faccia più esposta di questo paese, quindi dove poi tutti si sentono in diritto di emettere sentenze da Cassazione, tra l'altro, quindi mai sentenze di primo grado, direttamente Cassazione, inappellabili, e in cui ci sono poi i fatti riportati in maniera strumentale o altro. Sicuramente gli errori arbitrali ci sono, continueranno a esserci, però ripeto, se il presidente del Perugia, che tale non dovrebbe essere perché squalificato a vita, si permette, il presidente del Genoa, scusate, sì, si permette, Preziosi, di fare quelle allusioni, poi non ci possiamo stupire se sui social si scatena l'inferno. Ecco, sì, senz'altro, senz'altro. Gli esempi sono questi. Senz'altro, ma poi mi sembra che i nervi siano discretamente scoperti, stante le due giornate di squalifica di Garcia per uno schiaffo ad uno steward nel tunnel degli spogliatoi di Genova, e questa ci arriva abbastanza nuova. Una giornata di squalifica anche per Allegri per proteste con doveri, e i nervi erano a fior di pelle anche domenica a Torino. Beh, lì nel tunnel qualcosa è successo, anche attraverso le telecamere vedevamo che la copertura si muoveva abbastanza vivacemente, quindi sì, qualcosa stava succedendo là dentro. Noi non l'abbiamo vista né con gli occhi delle telecamere né con i nostri occhi, non mi pare che ci sono documenti visivi, quindi dobbiamo stare alle relazioni in questo caso dell'ispettore federale o di qualcuno del quarto uomo, chi altro che avrà visto questa cosa. Ora vedremo se Garcia dirà la sua piuttosto che pagherà in silenzio, insomma. Poi sempre è difficile sentire, ma non è il caso di Garcia in generale, sentire uno che dice ok, ho sbagliato, pago la via ammenda, piuttosto che... Ma mi sembra che Garcia comunque non abbia scelto la via del silenzio nella dialettica della Roma contro la Juventus. No, tutt'altro. No. Secondo te fa bene oppure no? Ma secondo me, la cosa più bella su Garcia, secondo me l'ha detto Totti, ha detto è un grande allenatore e pure un gran paraculo. Ecco, Garcia in quest'anno di Roma si è romanizzato, ci ha capito cosa piace sentire i tifosi alla piazza, e questo è un modo anche intelligente, più furbo forse, più intelligente nei momenti di difficoltà, di spostare l'obiettivo e provare in casa di risolvere i problemi. Ecco. 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Ricordo che dalle 15 saranno qui Pardo e Cruciani e sentiremo le loro opinioni non solo su temi calcistici ma anche sulle Olimpiadi 2024 a Roma, che a me fanno venire un po' i brividi, cioè l'idea a me fa venire i brividi, non so a te Maurizio Nicita. I brividi no, perché chi, cioè per quello che mi riguarda, per chi nasce e cresce nello sport, l'Olimpiade dovrebbe essere sempre il massimo. Poi tolto l'idealità e guardando quello che ci circonda, le perplessità e gli interrogativi sono tanti. Però mi piace ricordare le parole di Cantone, che è un magistrato sicuramente super partes, che dice insomma, se l'Italia deve candidarsi a un qualcosa di così importante, insomma, non può non farlo alla luce del fatto che, siccome in precedenza ci sono stati episodi di corruzione, allora non facciamo più niente, allora così non si farebbe più niente. Probabilmente bisognerebbe un po' ripulire il panorama, ma non mi pare il contesto adatto, da qui il pessimismo diffuso. L'ultima cosa sul Napoli ti chiedo, Maurizio. A Napoli potrebbe essere il Natale della resa dei conti, c'è l'anticipo da giocare giovedì, ma poi c'è soprattutto questa strana ed esotica Supercoppa italiana a Doha. Negli Emirati Arabi Benitez vinse il mondiale per club con l'Inter e poi salutò la compagnia. Potrebbe succedere in un paese esotico la stessa cosa con il Napoli, anche se De Laurentiis mi pare che abbia ora smentito, cioè Benitez dicendo la squadra è forte, Benitez è straordinario, rimarrà con noi, eccetera, eccetera, eccetera, poi vediamo. Secondo te cosa succede lì? Boh, io credo che mi sorprende il profilo molto basso di De Laurentiis, e non solo in campo calcistico, cioè forse è il primo Natale che il suo film di Natale, se voglio chiamare panettone o meno, non viene strombazzato e presentato in pompa magna come è accaduto nell'ultimo decennio, da quando praticamente ha i riflettori accesi anche del calcio. Quindi sì, mi fa capire che c'è qualcosa che va oltre il calcio alla film Auro, piuttosto che comunque in tutto quello che è il sistema De Laurentiis. Ma lì mi fermo, perché non conoscendo addentro se c'è qualcosa non mi permetto nemmeno di fare illazioni, però questo è un dato di fatto, questo profilo. A me, sai, a me sorprende molto questo lunghissimo silenzio. Esatto. Questo lunghissimo silenzio. Lunghissimo silenzio. Io credo che lui non abbia alcuna voglia in questo momento, forse anche possibilità, di investire granché su Napoli, quindi sul mercato di gennaio, eccetera. Quindi voglio cercare di arrivare a giugno, dove poi è chiaro che ha fatto capire prima fra tutto l'intervista del nostro Amalfitano, fatto con lui un mese fa, era metà novembre, con Benitez, in cui disse chiaramente poi se ne parlerà a fine stagione, non è il momento, il Napoli deve crescere a prescindere da Benitez, insomma fu quasi un testamento per cercare di uscirne fuori. Ora, il problema è che manca il manico, perché si vede De Laurentiis non si sente, Benitez sta in panchina a prendere appunti, tra l'altro la cosa più esilarante mi sembrano ieri ecco nel profilo dei social, tutte le supposizioni. Mi piaceva tantissimo un ragazzo che ha rappresentato un cappetto in cui c'erano crocche, frittatine e tutte delizie napoletane, che evidentemente non si fa mancare Benitez, a giudicare dalle sue sembianze, no? E prendiamola a ridere anche lì. Però Benitez sta mancando come manico, ha dato dei segnali comunque di rilassamento, e il gruppo. Poi è così anche nel nostro lavoro, no? Se ti manca un po' lo stimolo, se ti manca un po' il capo che ti dà gli stimoli giusti, magari inconsciamente tendi a mollare sul lavoro. Ecco, il Napoli in questo momento sembra poco squadra, poi magari questa occasione... Mi sembra scollato il Napoli, cioè mi sembra ci sia una grande distanza tra Benitez molto freddo, al di là di quello che scriveva sul blocchetto durante la partita di San Siro, e alcuni suoi giocatori importanti. C'è Higuain, che è incazzato nero da quando ha perso la Champions League, esatto. E questo si nota, lo si vede in faccia, lo si vede sul campo, eccetera. C'è Amsic, con cui Benitez non si è mai preso, ed è un altro giocatore importante. E quindi mi sembra ci sia una parte di quel gruppo che forse avrebbe bisogno di un chiarimento, però è chiaro che questa resa dei conti deve venire a venire la società. Non si tratta di remare contro, ma si tratta di obiettivi poco chiari comuni, ecco, in questo senso sono perfettamente d'accordo. In più ci aggiungo una cosa che mi fa arrabbiare di Benitez, che non c'è dubbio che ha un grande curriculum e un ottimo tecnico, non è questo in discussione, però quando mi fai ogni volta il discorso sui fatturati, sì, e poi pareggi con l'Empoli in casa, col Palermo, perdi col Chievo e tutto, allora il discorso è bello saltato, cioè non puoi farmelo soltanto quando ti conviene, perché poi ti torna indietro come un boomerang. Ma soprattutto, secondo me, la cosa che fa arrabbiare gli osservatori, soprattutto i tifosi, sono quei picchi positivi, cioè vedi partita con la Roma, giocata in maniera straordinaria dal Napoli, finita solo 2-0, poteva finire anche con un risultato più largo, dove tu vedi in maniera chiara le potenzialità di una squadra, di un gruppo, e poi non le vedi più, poi scompaiono. E le amnesie difensive della squadra di Benitez da un anno e mezzo sono sempre le stesse. E allora ti sorgono dei dubbi, grossi, perché poi se tu di una squadra non vedi mai quello, cioè immagini il potenziale ma non lo vedi mai, puoi dire può essere limitata la squadra. Certo. Ma se poi ci sono dei momenti in cui lo vedi quel potenziale, che magari viene fuori a Doha e metti una pezza alla stagione, perché poi vincere quella Supercoppa, magari il tifoso è contento e metti una pezza alla stagione, sì, però resta il dato di fatto che la continuità non è di casa. No, a me non piacciono, a me danno abbastanza fastidio gli allenatori che tirano in ballo i fatturati, gli estratti conto, e che poi immediatamente dopo si rivolgono a me piace nominare una volta in più un vecchio amico personale, anche la persona che stimo tantissimo, che è Ciolo Simeone, ha dimostrato che tutto questo conta fino a un certo punto. Sicuro. Se non incorna al 93esimo quella palla, Ramos ha vinto pure la Champions, e parliamo con di un tanti saluti al signor fatturato, con tanti saluti. Allora, quest'anno è vero, l'Atletico ha speso, però ha speso quello che aveva guadagnato, una rosa di giocatori che, ricordiamoci, che in Italia sono stati scartati. Sì. No, ma ha speso, Maurizio, ha speso quello che aveva guadagnato sul campo, quindi niente di strano, di clamoroso. Grazie Maurizio, a presto. Grazie. Un abbraccio. A voi. Grazie. Buon Maurizio Nicita. Ci fermiamo per la borsa e poi torniamo con Salvatore da Napoli, Cristian da Verona, 800240024, il vostro numero verde, ci sentiamo dopo. Grande rispetto verso una squadra che due anni or sono era finalista, che ha dimostrato in questi anni di meritare sempre un palcoscenico importante. È un momento di apparente crisi di campionato e non in Champions, però insomma, ecco, dobbiamo essere contenti. Tutti convocati. Parlavano di preziosi mafia capitale. Poi, se vogliamo parlare dell'arbitraggio, un altro discorso, le dico esattamente cosa ho detto. E dico che è arbitro Banti, per noi è una iattura. Perfetto. E lo confermo, perché l'ho detto, lo so, perché i dati di 17 partite parlano chiaro. Non c'è stato mai un arbitraggio sereno da parte di Banti a Genova. Se le vuol vedere le statistiche si renderà conto. È uscito sempre tra i fischi e tra il caos. Quindi per noi è una iattura. Okay. Se non viene più Banti da noi, ci fa un piacere. Se non si ha misura nella vita, nello sport, nei sentimenti, non si ha nulla. Il Napoli non è al penultimo posto, è una delle migliori squadre del nostro campionato, e sino a 5 minuti fa, Scanzi ha perfettamente ragione, veniva esaltata la serie favorevole del Napoli, e c'erano domeniche che Auriemma ringiovaniva di 20 anni. Da qui a dire catastrofe, serie B, un presidente di merda, ma è pazzesco, io trovo tutto ciò pazzesco. Tu hai mai avuto di sfide rusticane per una questione di donne con altri calciatori? No, altri calciatori, giocatori, cestisti. No, è un'etica mia non rubare la donna agli altri, anche se sai cos'è, le donne dei giocatori di paganestro non sono come quelle dei cacciatori, ecco, cioè, non sono così particolarmente bello, spesso bello. Un giocatore normale che tira forte, però non lavoro troppo con la squadra. Adesso fai meglio a Liverpool, lavoro poi non fai gol, però quando sei a Milan è normale che è tuo amico con il giocatore, quando giochi a punta lavoro come un giocatore come Mazzini, però... Toni, Gilardino. Però adesso Mario è in difficoltà perché c'ha troppo chance, ha giocato per City, non ha fatto troppo gol, ha giocato per Milan, Inter e Liverpool. So, adesso non puoi dire che è il problema della squadra, è il problema di qua, adesso Mario deve lavoro e lavoro duro per divenire un grande attaccante. Allora, ne abbiamo sentite anche qui un po' di tutti i colori, no? Allora, Preziosi dice che, punto primo, non ci prende in giro sulla storia di Mafia Capitale, perché dai, non siamo così fessi. Presidente, per favore, abbiamo capito. Poi dice che Banti è una iattura, quindi meglio evitare al Genoa in futuro la iattura Banti. Chi ha orecchie per intendere anche in questo caso intenda. Dopo, prima c'era stato Pozzo, ricordate, dopo la partita dell'Udinese a San Siro con il Milan, che aveva detto Valeri va eliminato, non fisicamente, ma va eliminato da... quantomeno dagli occhi dell'Udinese, dai piedi dell'Udinese. Poi abbiamo sentito Pozzecco che non ruba le donne agli altri cestisti, magari le ruba ai calciatori, ma gli altri cestisti no, i calciatori sono vagamente meglio. Poi abbiamo sentito Tarat fare la morale a Balotelli, Tarat che fa la morale a Balotelli, molto divertente anche questo. Tarat che ha giocato in questa stagione 28 minuti con il QPR e che tornerebbe a Milano, al Milan anche a piedi, e chissà che questo avvenga presto, magari a gennaio. Poi abbiamo Carlo da Cosenza che mi scrive: Balotelli a Napoli e Higuain a Liverpool, manca solo l'ufficialità. Ufficiale. Altro aspetto che... altra notizia che proveremo ad approfondire tra poco, perché parleremo anche di Napoli nella seconda ora con Cruciani, con Pardo, con altri ospiti anche sul fronte Napoli. Max da Udine, fonti napoletane mi dicono che De Laurentiis a fine anno vende il Napoli. Eh? Com'è questo? Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Ma quante gliene sto raccontando? Signor Genta. Dica. La so, sto ascoltando tutto quello che avete detto. Quante gliene sto raccontando? Mamma mia, guardi, io non ce la faccio più. Io sono uno di quei di quei telespettatori molto incazzati che ha detto prima il suo ospite. Sì. E praticamente io direi una cosa: se si parla di Benitez di partenza che va via, poi non se ne parla più, poi si comincia a parlare che vuole vendere, poi non se ne parla più. Ma queste persone, se non hanno voglia di andare avanti, se non hanno voglia di darci un futuro, un qualcosa di stabile, perché non vanno via? E poi un'altra cosa che le voglio dire a lei personalmente: se qualche giorno può invitare il signor De Laurentiis a questi microfoni. Sì, ma molto, ma no, allora guardi, allora fuori dallo scherzo e dall'ironia, io ho grande stima di De Laurentiis, è intervenuto spesso a questi microfoni, credo che abbia fatto un grandissimo lavoro con il Napoli e credo che siano ingiuste molte delle critiche che gli sono state mosse, soprattutto nell'ultimo anno solare, perché è vero, in questa stagione il Napoli non è stato rinforzato, è vero, è uscito dalla Champions League e probabilmente anche per quello non è stato poi rinforzato. Lì si trattava di decidere, ok, vado prima in Champions League e poi compro e poi vado in Champions League, se poi non vado in Champions League che cosa succede? È stato probabilmente un conto sbagliato, un calcolo sbagliato, o forse voluto, però io ho grande stima per De Laurentiis, certamente lo inviteremo non appena possibile, ma dicevo prima, la cosa che più mi sorprende in questo momento del Napoli è proprio il silenzio dei diretti interessati, che è, credo, nocivo per il Napoli e per loro stessi. Oggi De Laurentiis ha parlato, per la verità, perché ha parlato con radio e TV private della campagna in occasione della presentazione del suo ultimo film, Un Natale stupefacente. Dobbiamo giudicare l'andamento di una stagione soltanto alla fine della stessa. Nel Napoli ci ho messo la faccia, non lo mollerò mai a nessuno e continuerò a lavorare per questa società. Credo che la squadra sia forte e abbia un allenatore indiscutibilmente straordinario come Benitez. In Europa League per la prima volta siamo stati apparentemente fortunati nel sorteggio, specie rispetto alle altre italiane. Io non mi sono mai tirato indietro e vedremo come migliorare il Napoli. De Laurentiis oggi ha detto queste cose. Cristian Verona, buongiorno. Buongiorno gente, complimenti veramente per la trasmissione. Grazie. Per le spalle grosse da sopportare, le varie incentivi dei tifosi che le mandano. No, volevo... Mi diverto moltissimo, perché anche perché nella maggior parte dei casi sono discussioni molto intelligenti. Dica. Senta, io ho vissuto per qualche tempo per lavoro sia in Inghilterra che in Germania. Ho fatto vedere qualche partita, però non ricordo ad esempio che durante la settimana si parlavano di arbitri, addirittura che facessero vedere come in Italia gli arbitri che andavano ad arbitrare la domenica successiva, eccetera. Io volevo chiederle, com'è possibile che in Italia non si ritorni a un sorteggio integrale, dove tra l'altro l'ultima volta che c'è stato ha vinto il mio Verona il campionato, guarda caso, sì, che secondo me toglierebbe qualsiasi almeno idea di malaffare, cioè che anche se non c'è, perché la buona fede dà per scontata. Perché le società non vogliono un sorteggio? Se ti arrivano sei volte di fila Rocky, ti tieni Rocky sei volte di fila, ti arriva cinque volte, ti tieni cinque volte Rizzoli. No che la Juve non vuole quello, il Milan non vuole l'altro, la Roma non vuole l'altro, sì, sì. Io la vedo così. No, ma questa è una possibilità, questa è una teoria. Poi in un mondo normale e ideale io preferisco la designazione, cioè nel senso c'è un addetto a una persona competente in grado di valutare la condizione fisica, che ormai è molto importante, la preparazione di un arbitro, la sua attitudine a dirigere una certa partita. Quindi in un mondo normale e ideale la designazione ad hoc dell'arbitro per caratteristiche, condizioni fisiche, capacità eccetera eccetera nei confronti di una certa partita è la soluzione sportivamente più corretta. Se poi vogliamo tornare ad affidarci alle palline, facciamo pure, poi ci sarà anche chi dice che quelle palline sono state surriscaldate ad hoc, magari attraverso il telefono di Moggi. Tutti convocati. One point away from matching Michael Jordan for third all time, and now a single free throw away. Becoming the NBA's third all-time leading scorer. So probably not the pageantry most people wanted to see, but effective nonetheless and appropriate because not only did his first point come from the free throw line, but he scored many more points from the free throw line over his career than Michael Jordan has. Mm-hmm. Kobe's a great player. It's really an honor to be here now at this moment to see history. He deserves everything he gets, and I think it's really classy for the Minnesota Timberwolves to stop the game. E così Kobe Bryant superò Michael Jordan alla voce punti segnati nell'NBA. 32.310 per Kobe Bryant, 32.292 ora per Michael Jordan. A guidare questa classifica Kareem Abdul-Jabbar 38.387, poi Carmelo 36.928. Ovviamente sono numeri, sono statistiche che lasciano certe suggestioni. Io non penserò mai che Kobe Bryant o nessun altro sia superiore a Michael Jeffrey Jordan, mai. Però prima di tornare a parlare di calcio, di Olimpiadi, di ricevere qui Pardo e Cruciani, dato che ci accusano sempre, mentre c'è chi suggerisce, Roberto da Torino, uno scambio alla pari tra De Laurentiis al Toro e Cairo al Napoli, così si accorgono che il presidente stanno insultando i napoletani, io mi domando anche perché i tifosi del Toro ce l'abbiano così a morte con Cairo. Quindi questo discorso vale per tutti e due i fronti, cioè io non capisco perché i napoletani ce l'hanno a morte con De Laurentiis, che li ha pescati dove li ha pescati nella, lasciatemelo dire, la munnezza del fallimento, e li ha portati dove sono ora. Non capisco perché i tifosi del Toro ce l'abbiano con Cairo, che sta facendo, che ha raggiunto l'Europa e che sta provando a mantenere il Torino su dimensioni da Torino. Però vabbè, tant'è, se volete me lo spiegate. Intanto, dato che ci accusano sempre di essere maliziosi e cinici, cosa peraltro molto vera, come dimostreremo subito dopo il GR con Pardo e con Cruciani, voglio parlarvi adesso di peluche, di orsacchiotti, di morbidoni. Mario Castelli racconta il basket per Sport Italia. Ciao Mario. Ciao a tutti, ciao Carlo, grazie per avermi raccontaci convocato. Cosa è successo sui campi italiani nell'ultimo weekend. Nell'ultimo weekend sui campi italiani di basket di serie A e A2, Gold e Silver, che sono le due categorie della 2, sono volati dei gran peluche su tutti i campi, semplicemente perché è andata in scena questa iniziativa benefica che abbiamo promosso io e la giornata tipo, che è questa pagina, questo sito di basket che parla in maniera ironica di pallacanestro, che ha quasi 100.000 iscritti su Facebook, e abbiamo promosso appunto questa iniziativa di beneficenza in cui i tifosi erano invitati a portare al palazzetto ognuno un peluche che doveva essere tirato in campo dopo il primo canestro della partita dal campo, quindi non un tiro libero, un canestro da 2 o da 3 punti. Sì. E questi peluche formavano appunto una coreografica pioggia di pupazzetti che cadevano in campo, ma ovviamente non così per bellezza, ma per beneficenza, perché questi pupazzi poi vengono raccolti da tutte le società e nei prossimi giorni verranno portati dai giocatori in persona nei reparti pediatrici degli ospedali delle rispettive città. Quindi per portare un piccolo regalo a dei bambini malati che non potranno magari neanche passare il Natale a casa, così potranno avere un piccolo dono per il Natale, potranno passare qualche ora con degli atleti professionisti, e sappiamo tutti il bene che lo sport può fare ai bambini, potersi trovare a contatto con dei giocatori di calcio, di basket, comunque con i loro idoli. E appunto per dargli un po' di forza in questo periodo dove tutti i bambini vorrebbero essere, certo, a casa, ricevere i regali con i propri familiari, magari ce ne sono alcuni che purtroppo per ragioni che non dipendono da loro, perché sono malati, dovranno passare in ospedale, così abbiamo pensato di provare a addolcirgli questo periodo difficile, di portare questi doni dai giocatori e parallelamente anche promuovendo una raccolta fondi a favore della Peter Pan Onlus, che è questa associazione che appunto aiuta i bambini malati di cancro, che ha sede a Roma e che ha subito sposato la nostra iniziativa. Sì, poi ho visto immagini davvero bellissime, impressionanti, ho visto quelle di Milano dopo il primo canestro della partita, veramente una pioggia, è durata minuti di pupazzetti, mentre a Torino e a Genova volavano gli stracci, nei palazzetti italiani volavano i pupazzetti. Come si chiama questa iniziativa, me lo ricordi? Si chiama Teddy Bear Toss, che serve in sostanza il lancio degli orsetti di peluche, traducendolo in italiano. Bear, noi, certo, l'abbiamo importato tra virgolette dagli Stati Uniti e dal Canada, perché è un'usanza che si tiene nelle leghe minori di hockey ghiaccio americane e canadesi. Si fa anche qua da qualche parte nell'hockey ghiaccio italiano, so per certo che lo facevano a Valpellice, hanno iniziato l'anno scorso a farlo qua a Milano all'hockey rosso-blu, lo fanno anche all'Ambrì Piotta in Svizzera, nel Canton Ticino, però era una cosa soprattutto locale. Noi abbiamo voluto lanciarlo proprio su scala nazionale nella pallacanestro sui campi di Serie A 2. La cosa bella è che ovviamente noi ci siamo limitati a questi campionati perché sono quelli con maggiore affluenza del pubblico, maggiore visibilità, dove è possibile, è più facile anzi organizzarsi, mentre sui campi più numerosi e più piccoli del resto d'Italia è più difficile. Ma è stato bellissimo come tante società minori si sono volute attivare da sole, hanno chiesto loro i permessi alla federazione e alla Lega, perché noi abbiamo fatto questo per le squadre di Serie A per evitare che ci fossero appunto multe per il lancio di oggetti, come purtroppo capita spesso. Quindi noi ci siamo mossi per unire la Lega Basket, la Lega Pallacanestro e la Federazione Italiana per la Serie A e la Serie 2. Tantissime squadre di provincia si sono sentite chiamate in causa, anche se erano entusiaste di questa idea, e hanno scritto loro di loro sponte per poter fare. E infatti anche su altri campi è andata in scena questa iniziativa. La più bella è stata quella di questo paesino che si chiama Follo, in provincia di La Spezia, poco sopra La Spezia, che è un paesino piccolo, e in Serie C sono stati i primi a farlo, perché hanno fatto sabato alle 18, quasi tutte le partite erano domenica, e loro sono andati al palazzetto. Noi dicevamo, Follo in Serie C, un paesino, quanti andranno? In 300, non so come verrà. Ci hanno mandato il video appena l'hanno fatto, era stato meraviglioso, perché saranno stati così a occhio, da loro che si dà l'inquadratura, in 300 al palazzetto saranno volati almeno 400 più una miriade, quindi sono stati davvero grandissimi. E poi in tutto il weekend c'è stata questa pioggia benefica su praticamente tutti i campi. Senti, ma tu a casa il pupazzetto di Michael Jordan o quello di Kobe Bryant? Sei uno di quelli che pensa che Kobe sia più grande di Michael? Io, se devo scegliere un pupazzetto tra questi due, io sono ancora per Michael Jordan. Premesso, Kobe Bryant è un giocatore clamoroso, e questo non lo scopro certo io, però va detto, anche perché sennò mia amica Alessia qua si arrabbia perché è il suo giocatore preferito. Ma comunque, al di là di questo, secondo me Michael Jordan è stato quello che ha rivoluzionato il gioco, nel senso, era una rivoluzione che aveva iniziato qualche anno prima Magic Johnson e Larry Bird. Lui l'ha completata, l'ha portata un passo più in là e ha reso il basket dell'NBA quello che è adesso. Sostanzialmente l'ha portato a un livello globale, è stato il passepartout per portare quella che era una lega che a inizio anni 80 era in grave difficoltà, che è stata risollevata dal binomio Bird e Magic Johnson, sì. Lui l'ha davvero resa qualcosa di internazionale, ha reso uno dei campionati più seguiti in assoluto di qualsiasi sport a livello mondiale. Quindi lui è stato proprio quello che ha cambiato il gioco. Kobe Bryant l'ha superato in punti, è un giocatore straordinario, ovviamente la media è più bassa di Kobe Bryant perché attorno ai 25 sì. punti a partita. Sì, anche perché Jordan ha giocato 1072 partite, non dimentichiamo che è stato, esatto, innanzitutto è arrivato nell'NBA più tardi rispetto a Kobe Bryant e poi c'è stato quell'oscuro periodo del ritiro in cui decise di fare il giocatore di baseball per le minori per storie mai del tutto chiarite. Bryant ne ha giocate 1269, dunque media punti di Jordan 30.1, media punti di Kobe Bryant 25.4, sono enormità, sono cose da superstar assolute, ma io un giocatore come dominante come Michael Jordan credo non lo vedrò mai più. Credo. Io sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Mario, buon lavoro. Grazie a voi per avermi convocato. Grazie Mario Castelli, voce del basket di Sport Italia. Silvia da Firenze. Voce sì, di Firenze. Buonasera, sono buonasera. Silvia. Grazie per la convocazione. A lei. Io vi ascolto quasi tutti i giorni, sono al lavoro quest'ora. Grazie. Però volevo fare una piccola critica, se possibile. Certo che è. Io, dunque, spesso, non solo voi, ma spesso anche in televisione, trasmissioni sportive, così. Cioè, della Fiorentina non ne parla quasi mai nessuno. Mm. Anche se è in Europa, anche se arriverà la Champions League, non si sa, è anche in Champions League. Però non ne parla mai, mai, quasi nessuno. Proprio una cosa proprio di straforo, così. Vabbè, c'è cioè anche la Fiorentina, poi... Cioè solo Milan, Juve, Inter, anche se vanno male, magari quell'anno, non importa. Poi Roma, vabbè Napoli, così quando c'è queste cose. Sì, ma facciamo così, facciamo ammenda e parleremo magari anche della Fiorentina, può essere della Fiorentina, ma certamente di un fiorentino nella seconda ora del nostro programma, fiorentino che si chiama Matteo Renzi, che vuole portare le Olimpiadi in Italia. Ci sentiamo dopo Bet Corner e GR 800240024. Io aspetto Parde Cruciani. A dopo. Quote e pronostici. Ma in campo questa sera la Serie B con il recupero tra Entella e Modena, gara sospesa per il maltempo, si gioca a Chiavari alle ore 20:30. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, il successo dell'Entella, è quotato 2,75, l'X è a 3, il 2 invece è quotato 2,70, gol quotato 1,92, no gol quotato 1,78. Serata in campo anche in Inghilterra con la Capital One Cup, due match si giocano alle 20:45, Derby County contro Chelsea, l'1, il successo del derby è quotato 6,25, l'X è a 4,20, il 2 con il successo del super favorito Chelsea è quotato 1,50. Altra sfida è quella tra Sheffield United e Southampton, l'1, il successo dello Sheffield è quotato 6,50, l'X è a 4,15, il 2 invece con la vittoria del Southampton è quotato 1,50. In campo anche la Bundesliga con alle 20 Bayern Monaco Friburgo, l'1, il successo dei bavaresi è quotato 1,07, X a 11, 2 invece quotato addirittura 28. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Allora, è arrivato Giuseppe Cruciani come ampiamente annunciato. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Giuseppe, grazie. Pardo arriverà tra un istante trafelato come al solito e sta parcheggiando, chi lo sa? Sta parcheggiando. Sì, sta parcheggiando. Conosci l'orario della radio, Pardo? No, non credo. Uno parcheggia, parcheggi 10 minuti prima, no? Credo non li abbia ancora imparati. Io adesso voglio sapere la tua sulla Querelle Preziosi, Mafia Capitale, eccetera. Oh, la Querelle Preziosi. Guarda, io non sono uno di quelli che, come sai... sono così puntiglioso sulle affermazioni virgolettate esattamente, se uno voleva dire una cosa l'ha detta, però devo dire la verità, la parola mafia capitale, la frase mafia capitale non l'ho mai sentita dalle parole di Preziosi, questo non c'è dubbio. Che poi lui volesse fare la battuta su Roma, succedono cose strane, cosa folle che non ha nulla a che fare col sì. pallone ovviamente, con quello che è successo domenica a Genova, può darsi, lui ma dice di no. Io credo che anche un bambino di 6 anni abbia capito sì, però il molti giornali hanno hanno titolato Preziosi, due punti, virgolette, mafia capitale, chiuse virgolette. Ho capito, ma se uno dice mafia capitale con riferimento alla partita, questo ha un significato. Di cosa stava parlando? Queste le parole di Preziosi, risentiamone. Questa Roma è difficile batterla, ci poteva stare, io non so se c'era questo fuori gioco e se c'era dominio, ma so che anche questa decisione qua è stata molto dubbia, per cui mi dispiace, perché a Roma sta succedendo un po' troppe cose, stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Beh, insomma, non ha nulla a che fare con quello che hanno virgolettato i giornali. Cioè, se poi adesso se restiamo a questa frase qui, cioè se restiamo a questa frase, Preziosi non ha mai detto virgolette mafia capitale chiudi virgolette. Mai, ha detto stanno succedendo un po' di cose strane, non vorrei fosse coinvolto anche il calcio e follie di questo tipo, che non c'entra chiaramente nulla, è comunque una cosa sbagliata, ma non ha mai detto che la partita è stata condizionata, cioè Roma-Genova, la decisione dell'arbitro, sono state condizionate da mafia capitale. Non ha mai pronunciato una frase del genere. Ma sei d'accordo sul fatto che intanto abbiamo un terribile rimbombo, questioni di microfoni e cuffie che adesso vediamo di sistemare, sei d'accordo sul fatto che se Juventus e Roma vanno avanti così è un macello mediatico? Juventus e Roma vanno avanti così, come? Sì, ma con queste schermaglie continue. Adesso sì, Garcia sì. Non perde occasione per allentare la presa sulla Juventus, le polemiche sono continue. Da Torino stanno zitti, ma ai regalini ma pensano tutti. Ma le ultime tutti. Di oggi quali sono? No, le ultime di oggi non ci sono reazioni. Non mi sembra ci sia granché, però. Beh, insomma, non perdono occasione di twittare foto con i presunti torti avuti dall'uno o dall'altra. Quindi è chiaro che che questo confronto sta diventando sempre più, tra virgolette, mediaticamente violento. Sì, violento adesso nelle ultime settimane non mi sembra. Certo, se la Roma continua a avere in testa la partita del 5 ottobre, lo spartiacque del 5 ottobre, beh, allora questo è un danno per la Roma, secondo me, dal punto di vista psicologico. Cioè, la Roma non deve più avere in testa quella partita lì, e tutto l'ambiente, credo, della Roma non debba più avere in testa quella partita lì. La Roma è un punto, è in rimonta, ha una squadra che può vincere lo scudetto a prescindere da quell'episodio, anche perché se poi si va a vedere gli episodi, come sai, anche i nemici tra virgolette della Roma potrebbero dire qualcosa alla partita col Sassuolo, il rigore che è stato dato, e se vogliamo anche la partita col Genoa, anche se non c'è nulla di particolare. Tanto siamo alle recusazioni di fatto degli arbitri, perché Pozzo ha ricusato Valeri dicendo va eliminato, no? Testuale dopo la partita di Milano. Preziosi ha detto che Banti è una iattura, quindi meglio se non vedo più arbitrare il Genoa. E voi vi rendete conto, allora, il presidente della Sampdoria, Ferrero, che io adoro, è stato inibito per tre mesi per una frase scherzosa detta su Toir. Sì. Una frase scherzosa detta su Toir in cui non c'era alcun intento offensivo. È evidente che è così, no? Il presidente Ferrero, almeno fino adesso, poi ovviamente chissà cosa potrà accadere, non ha detto mai una parola contro gli arbitri, anche perché fino adesso, insomma, anche se vogliamo con l'Inter, no, nell'unica sconfitta della Sampdoria, qualcosa da ridire c'era. Eppure qualcuno sostiene non ci capisce nulla. Sì, no, ma non ha mai detto una parola contro gli arbitri, eppure è stato inibito per tre mesi. Sì. Allora, questi qua che hanno tuonato contro gli arbitri dicendo in tutti i colori, dovrebbero essere decapitati, allora, se quello è stato inibito per tre mesi, no? Garcia oggi a France Football: abbiamo un punto in meno della Juventus, ma dovremmo essere davanti perché abbiamo perso 3-2 a Torino con tre gol irregolari, dichiarato a France Football. Sì, oggi. Sì. No, ma sai, in Francia poi. Interviste in Francia. Vabbè, ma ci sta, insomma, adesso non. Allora, voglio che mi dici la tua anche sull'Olimpiade di Roma. Olimpiade di Roma oggi ci sono. La ricaduta mediatica durerà. Telegraph, sì. L'ambizione dell'Italia, scrive Nick Squires, l'ambizione dell'Italia nel bel mezzo della peggiore recessione della fine della seconda guerra mondiale è stata accolta con derisione. Pardo, buongiorno. Eccolo. Ha parcheggiato. Molto bene, ha parcheggiato. Sotto sui sistemi, intanto noi continuiamo con le nostre cose. Nick Squires, Telegraph, l'ambizione dell'Italia nel bel mezzo della peggiore recessione della fine della seconda guerra mondiale è stata accolta con derisione. I giochi sarebbero a Roma, Firenze, Sardegna e Napoli, la casa della Camorra. Vabbè, questi sono, che cos'è, il Telegraph olandese, Telegraph, le cose inglese, The Telegraph, sì. The Telegraph. Cosa vuoi che ti dica adesso? Questa è chiaramente un'esagerazione, però io sono totalmente contrario all'organizzazione dei giochi a Roma, come sarei contrario all'organizzazione dei giochi a Milano, a Palermo, a Napoli o quello che è. Mi sembra che una delle poche decisioni corrette del governo Monti è stata proprio quella signor di dire, Monti, esatto, sì, del signor Monti, e fu quella di dire: no ragazzi, in questo momento sono troppi i rischi che si vada sotto, che diventi un bagno di sangue dal punto di vista economico, non ce lo possiamo permettere. E nonostante le pressioni che sicuramente ci saranno state all'epoca, che non era all'epoca 20 anni fa, era 2 anni mm-hmm. fa, disse di no. Non capisco quali siano i, come dire, i parametri cambiati da 2 anni a questa parte. L'ottimismo renziano da dove, sì, arriva, certo, però, però i dati sono sotto gli occhi di, sì, tutti. Ma uno può anche organizzare un evento, oltretutto parliamo di un evento fra 10 anni, con la speranza e la possibilità che le cose si rimettano in piedi in qualche modo. Può anche organizzare un evento con l'atteggiamento costruttivo, comunque, di generare reddito, di generare fatturati, di rimettere in movimento l'Italia. Cioè, io non lo so, una delle affermazioni più gettonate è che le Olimpiadi sono state la pietra tombale sul sepolcro della Grecia. Sì, sì, vabbè, sono d'accordo, va bene. No, però tutto è detto che le buone intenzioni, le buone intenzioni non lo facciamo, perché Milano è che... No, ma di buone intenzioni, come dire, sono, no, lastricati, eccetera, eccetera. Però il problema fondamentale è questo, che non c'è un esempio negli ultimi anni, proprio perché le Olimpiadi ti portano necessariamente non solo a corruzione, questo a tutte le latitudini, anche negli Stati Uniti, vedi Salt Lake City, eccetera, ma i budget sono necessariamente in rosso, ma sono in rosso proprio per costituzione, cioè non è possibile fare altrimenti. Allora è meglio che lo facciano paesi, come dire, che si possono permettere di andare in rosso, perché magari sono delle mezze dittature o quant'altro, come il caso dell'Azerbaigian, che pare si candidi in maniera molto seria. Adesso sentiamo Sorrentino, che è stato laggiù, esatto, e che ha scritto piuttosto che democrazie che hanno problemi di far quadrare i bilanci, o, lasciando da parte la questione della corruzione. Cioè, sì, non mi sembra una cosa da irresponsabile, o comunque da pessimisti, dire non è, in questo momento non siamo in grado di mettere in piedi una baladamma di questo tipo. A parte il fatto che insomma le possibilità di vincere non è che siano moltissime, ma detto questo secondo me è anche una questione culturale, nel senso che se noi non pensiamo più di essere in grado di far niente, non facciamo più niente. Cioè, secondo me uno dei problemi, poi io non mi occupo di sport, come si diceva in quel film, Palombella Rossa. Sì, no, ma voglio dire, quindi non ho esattamente sportiva, tutti i dati sul prodotto interno lordo, poi chiamiamo Barisoni e ce li facciamo spiegare. Però complessivamente mi sembra che insomma uno dei problemi psicologici del paese è anche che, oltre alla crisi enorme che è reale, c'è anche una crisi percepita, c'è anche una paura del fare tutto, dell'investire a 1000 livelli. Per cui... mi sembra Berlusconi quando parla così, cioè sì, l'ottimismo, la crisi percepita. 1 milione di nuovi impianti sportivi, come vado? Andromercu sta tremando, il signor Mercu. No, però io lo capisco questa cosa qua, diciamo che per far ripartire un paese, per infondere l'ottimismo, non c'è bisogno delle Olimpiadi, c'è bisogno di una buona e sana amministrazione, di rubare un po' di meno, eccetera, eccetera, eccetera. E forse anche di un momento economico che credo in questo momento complessivamente, cioè, sia. Io credo che proprio non abbiamo la struttura organizzativa, sia a livello di CONI, sia a livello di federazioni, sia a livello in generale di paese, per affrontare una roba che diventa serissima come le Olimpiadi. È vero pure che poi l'Olimpiade impatto anni... zero è una bufala, perché Londra lo ha dimostrato. L'impatto zero magari c'è un impatto negativo, magari c'è un impatto positivo. Io sono d'accordo sul fatto che ci sono 1000 rischi, e sono anche d'accordo sul fatto che Monti fece una scelta certamente impopolare in quel momento lì, ma una scelta probabilmente avveduta. Qui c'è, diciamo, l'ottimismo della volontà più che il pessimismo della ragione. Credo però in assoluto che noi siamo un grande paese, se siamo arrivati al punto di non poter neanche più pensare di organizzare una cosa del genere, suicidiamoci, andiamo, cioè dichiariamo la bancarotta. Ma non è vero, perché solo delle Olimpiadi, non è che o c'è le Olimpiadi o il suicidio, cioè, ma no, cioè, però voglio dirti che secondo me la questione è filosofica, ed è veramente una siamo battaglia. Siamo in grado di organizzare singoli eventi come le finali di Champions League, siamo in grado, a fatica, siamo in grado di organizzare i mondiali di pallavolo femminili, sul mondiale di nuoto ci andrei piano. I mondiali di nuoto già hanno comportato qualche problema, ma sappiamo perché, per la costruzione delle piscine in Italia. Già quando si deve costruire una piscina è un bordello, figuriamoci le Olimpiadi. Già costruire una piscina è stato un casino, ritardi, probabili mazzette, condanne, non do la colpa a nessuno, perché adesso bisognerebbe entrare nei dettagli, ma figuriamoci costruire non so quanti impianti per le Olimpiadi, è un inferno. Allora io come ho fatto ieri, invito ad uscire di qui via Monterosa, fare due passi, andare in piazzale Lotto dove c'era il Palalido, che Armani ha provato a ricostruire con i suoi soldi, con i suoi quattrini, un impianto a 5.500 posti, quindi non una cosa gigantesca, ci metto i soldi, lo rifaccio. Doveva essere consegnato lo scorso settembre. Se vai a vedere, c'è un buco e c'è uno scheletro di tribuna, sì, in questo momento. C'è la mia macchina parcheggiata nel buco. E c'è la tua macchina parcheggiata nel buco. Non diciamo, ce ne freghiamo delle mazzette, ce ne freghiamo delle procedure, facciamo una roba d'imperio in cui in due anni, superando qualsiasi tipo di ostacolo, facciamo tutto e i magistrati non devono rompere le scatole, eccetera, eccetera. Non si fa una cosa così, tipo dittatura. Infatti, le dittature sono in grado di organizzare giochi olimpici, giochi invernali, costruendo ovunque, oppure non si riesce a fare. Per esempio, in Azerbaigian. Ci sarà sempre un TAR, ci sarà sempre un. Che ti blocca. Che lavori, questo, che c'è l'amianto, che non si può fare. Appunto, siccome io credo che uno dei problemi dell'Italia sia anche tutta una serie di lacci, lacciuoli, ricorsi, ritardi. Credo, prima togliamo questi e ce ne vorranno di anni e di generazioni, poi allora, se ne può parlare. Facciamo una cosa: Olimpiadi del 2064. Oh, bellissimo. 64. Possiamo parlarne. Anzi, queste... 60, che così c'è l'anniversario di Roma, 100 anni dopo. Anni 60. Io queste le darei all'Azerbaigian, come scrive Andrea Sorrentino su Repubblica. È stato loro. Le Andrea le pagano, Andrea. Eccomi qua. Eccolo là. Tutti. Ciao Andrea Sorrentino, ciao. Ti è mancata Tiki Taka, che cominci a sentire un po', diciamo, di rotta da Tiki Taka, di Coltarche. Meno sì, mediaticamente sei un po', Sono scomparso, dai, vada. Ah, ce lo hai cassato. No, è venuto, cassato. Poi doveva andare in Azerbaigian, che so anche tutte le puntate Sorrentino, anche se chiaramente. Dunque, insomma... è il motivo per cui ha riempito di donne, di femmine Tiki Taka, come è stato notato anche in qualche critica. Sì, è un anno che riempiamo di femmine. Adesso ecco la risposta piccata. No, bisogna spiegare. Non è la novità dell'ultima ora. Bisogna spiegare che c'è una ragione tecnica. Ed è il fatto che le squadre non mandano i giocatori, non mandano gli allenatori. È verissimo. Questo lo dichiariamo io e Pardo pubblicamente. Non è facilissimo avere calciatori alle non te li mando, non te li noi mando. Noi ultimamente ringraziamo tutti, la porta è sempre aperta. Ieri avevamo. Potresti fare per esempio chiedere alla Roma se ti dà De Rossi sul Ciacato, su Carminati, sui rapporti, che è molto facile come cosa, credo. Io De Rossi l'avevo chiesto anche un anno fa per parlare di argomenti certamente potresti più potresti parlare del campo di stampa a Roma, no? Andrea, senti, non è che mi daresti De Rossi per un'intervista sul Ciacato, su Carminati? sì, come no, Dio. Ma in tutto questo poi c'è da dire un'altra cosa. Cosa amarissima, per svelare che il re è nudo, le interviste ai calciatori sono sempre meno interessanti, ragazzi. Sì, però in televisione Pardo insegna che in realtà solo la presenza di un volto, solo la presenza, ecco. qualsiasi cosa dica insomma, dipende molto dal volto, ci sono più punti, più share rispetto a Sorrentino e Cruciani. Io credo che in assoluto la televisione e la carta stampata abbiano degli obiettivi diversi anche in un'intervista. Chiaramente intervista televisiva mediamente può essere magari più spettacolare, più legata al famoso entertainment. Uh-huh. Ecco, l'intervista, chiaramente l'intervista di carta stampata è più finalizzata ad avere delle notizie, su questo non ci sono dubbi. Poi spesso le notizie, cioè l'altro giorno ti ricordi, Caio? Io veramente, poi facciamo una cosa, perché sto facendo adesso i test quelli della deontologia, no? Poi dico, ma Cassano, sì, beh, il Torino potrebbe essere un attaccato, e il giorno dopo che Cassano va al Toro. Caio l'altro giorno era qui da noi, ha detto: beh, Cassano è un bravo ragazzo. Il giorno dopo, certo, prima Cassano, pagina, Cairo Torino. Tutti che capisci che Torino. Questo conviene a tutti, però. È come Mafia Capitale di Preziosi, stessa cosa. Sì. Mafia Capitale di Preziosi, frase che non ha mai detto, incredibile. Non ha mai detto, mi era sottintesa. Ma non è vero, ma non si può titolare. Tutti. Scusa, Andrea, tu che sei, perché io non sono certo quello preciso sulle frasi, sulle cose, eccetera, anche se non ho mai attribuito niente a nessuno che non avesse detto. In ogni caso, la frase, se vai a risentire quella roba che abbiamo ascoltato prima, la frase virgolettata in prima pagina da tutti i giornali, Preziosi, due punti, apri virgolette, Mafia Capitale, chiudi virgolette, io quella frase non l'ho mai sentita. Ho sentito un riferimento alle cose strane che succedono a Roma, ma da qui a titolare partita condizionata da Mafia Capitale, adesso francamente... Lì c'è stato un effetto domino, perché i primi che hanno rilanciato questa frase di Preziosi hanno infilato nel titoletto, che è comparso in alcuni oblò televisivi, l'espressione Mafia Capitale, da lì tutti l'hanno ripresa, e questo è il sistema della comunicazione. Sì, no, ma non c'è dubbio che è stato un effetto originale. Chi l'ha fatto, chi l'ha fatto sicuramente è stato abile, però adesso non sarà gravissimo, però la frase Mafia Capitale, dalle parole di Preziosi, dalla bocca di Preziosi, è gravissimo, perché questo questo, perché questo meccanismo domino c'è in mille situazioni e ci porta lontani dal, premesso che la verità oggettiva ovviamente non esiste, ma da un minimo rispetto di quello che realmente succede, perché c'è sempre qualcuno che spara il titolo, qualcun altro che lo riprende e parte. Ieri sera avevo Preziosi ospite in studio che ha deciso di venire proprio perché voleva chiarire questo concetto. Ha detto che questa frase non l'ha mai detta, che con la Roma ha un buon rapporto, che si è sentito con Baldissoni, che l'arbitro non gli è piaciuto, l'ha definito una iattura, e vabbè, su questo si può discutere sul termine iattura, ma insomma mi sembra che la sostanza, il contributo... Cioè, ieri il Corriere dello Sport in prima pagina titolava vergogna, non so se vergogna o follia Preziosi, due punti, virgolette, mafia capitale. Adesso voglio dire, è come se Preziosi avesse attribuito alla cosiddetta cupola romana, non so chi, poi perché sono tutti in galera, il risultato della partita Genoa Roma. È vero che nell'intervista ha fatto un po' un accenno, cose strane che succedono a Roma, non si è capito bene cosa voleva dire. Sì, ma infatti è una cosa infelice quella che ha detto, ma non ha attribuito la sconfitta del Genoa alla cupola Roma capitale. Poi io, a chi? Io sono anche dell'idea che in ogni caso bisogna essere costruttivi, cioè è chiaro che era arrabbiato l'altro giorno Preziosi, però il fatto che il giorno dopo lui venga comunque a dire vabbè, ma quello ci no, sta. Però voglio dire, cioè, invece c'è sempre questa voglia secondo me di andare, vabbè, di andare a scambiare la Zanzara, lo sappiamo, è un programma da questo punto di vista invece che ama i toni pacati, che rifugge qualsiasi polemica, No, ma al contrario, io sono puzzo il biscotto dentro quando c'è il biscotto. Zizzania. No, ma quando però c'è la ciccia. Quando c'è la ciccia, esatto. Devo dire, quando un minimo di ciccia c'è, qui la ciccia dove sta? Fatemi sentire cosa c'è a Baku. Che c'è a Baku? C'è stato Sorrentino, ha visto, oltre a sei tornato a Baku. I resti dell'Inter, sei tornato alla Baku, è tornato e questa è già una notizia. È già una notizia. No, argomentiamo, andiamo avanti, cioè, superiamo questa fase di impasse. Credo che voi voleste chiedermi qualcosa sull'Azerbaijan che si organizza per le Olimpiadi, sì, no? Perché io le farei in Azerbaijan le Olimpiadi, non in Italia. Allora, l'Azerbaijan è pronto per ospitare i giochi olimpici. Io sono stato, ho fatto un reportage che è uscito ieri. Loro sono una nazione giovane, come sapete, nata dalla disgregazione dell'Unione Sovietica. Hanno scoperto di avere sotto le scarpe pare addirittura il 46% del gas metano presente al mondo, hanno un sacco di petrolio, stanno facendo accordi, l'hanno già fatti con multinazionali europee per portare questi gasdotti, uno arriverà fino addirittura a Lecce nel 2019, insomma si stanno aprendo all'Europa e al mondo e stanno comprandosi una serie di eventi sportivi importanti, tra cui la Formula 1 che nel 2016 sarà a Baku, tra cui gli europei del 2020 che faranno quattro partite a Baku e tra cui anche questi stranissimi giochi olimpici europei di cui voi senz'altro non avete mai sentito parlare, ma ne sentirete parlare perché si faranno a giugno a Baku nel 2015. Sono 20 sport olimpici, partecipa tutta Europa, alcuni di questi sport daranno diritto anche a dei punteggi per Rio 2016 e noi ci saremo. No. E soprattutto questi hanno tutti gli impianti pronti, hanno lo stadio per l'atletica, hanno ma cose belle, vere, hanno l'Aquatic Center che stanno finendo, hanno le piste per... Ma quanto è lontano sta Azerbaijan? Sono 5 ore di aereo dall'Italia, più che di fuso orario. Vabbè, 5 ore, ottimo, no? Ma comunque, questa è una dinamica... Questa è una dinamica... tipica dell'economia moderna, no? Da un lato ci sono dei paesi di tradizione, esatto, di storia, di cultura che vendono nel mondo ai nuovi ricchi la forza della propria tradizione, i propri famosi brand. Magari oliano anche la macchina del CEO o di qualche oliano. Cioè mettono dentro carburante per andare per velocizzare le procedure. Gente come Blatter, gente come Eccleston, Azerbaijan. Blatter adesso non c'entra niente in questo caso. No, ragazzi, ma adesso perché vuoi questa querela da Eccleston subito? Perché? Io mi dissocio completamente subito. Grazie al signor Eccleston. Eccleston va a correre là. Che succede a Baku? Formula 1 ci va. Va benissimo, è un paese bellissimo, c'è un paese bellissimo. Tra l'altro la Formula 1 fa un circuito cittadino, tra l'altro, dentro Baku, perché sono delle strade gigantesche. E possiamo immaginare che lì non siano recapitate, tanto non ci guarderà il signor Eccleston. Beh, non lo so, guarda, il mondo è molto globale. Io sono globale. Dalla parte, mi sembra una bella scelta, quindi nel caso io pardo due punti. Tutto sommato, perché no? Anzi, ci saremo a Baku. Fra l'altro Sorrentino, insomma, quindi appoggia Pardo diventa sponsor delle Olimpiadi di Baku in di cambio Baku. Di quattrini, insomma, mi sembra. No, non ma neanche sì, questo. Signori, ma fatemi stare tranquillo. Non dimenticate che l'Atletico Madrid da due stagioni ha lo sponsor dell'Azerbaijan sulle magliette, gli danno 12 milioni all'anno. Ma è tutto pronto, è tutto più semplice, più veloce. Perché l'Italia? Forza Azerbaijan! Perché Azerbaijan? Azerbaijan, forza Baku, forza Baku, non Malagò, i politici italiani, gli imbrogli, i TAR, i consigli di Stato e non so che. Ma ti rendi conto? Ma dove devono stare? I TAR, meglio il dittatore a zero. Io voglio il dittatore a zero, non il TAR e il consiglio di Stato. Scusa. Va bene. Dopo questo l'Iban di Cruciani sarà disponibile sul sito di Radio 24. No, non voglio soldi. Viva la dittatura a zero, se c'è, poi non lo so, anche qua mi guarderanno l'ambasciata a zero. No, è una delle democrazie più evolute al mondo, dovremmo solo imparare dagli amici a zeri. Pardo due punti. Della Repubblica, sì, persona, persona degnissima, degnissima. Anche se l'ultima elezione l'ha ottenuta con l'88,5% dei voti, è il consenso, quello che sogna Renzi. Ha preso il 70 alle primarie e 41 alle elezioni, è quello che sogna Renzi. Comunque la realtà è questa, cioè perché metterci in questo imbroglio in cui ci saranno mazzette, costruttori, cecati, Erbruttone, Itar, Consiglio di Stato, viva l'Azerbaigian e la sua semidittatura, quello con l'80%, è lontana, cosa, 5 ore d'aereo, 5 ore d'aereo. Impianti già pronti. Va bene. Allora, per ottimismo, prima di salutare la Sorrentino, congiunta Repubblica Radio 24, sono la Gazzetta sono si è schierata a favore. No, Sorrentino, non far impegnare il dottor Mauro. Ma sì, dottor Mauro, signor De Benedetti. Mi dissocio da me stesso, per carità. Allora, Sorrentino, commentami questa frase: Moratti, due punti. Io cambierei tutti. Ma aspetta un attimo. Ma c'è 31. Un attimo. Prima di salutare Sorrentino, commentami questa frase: Moratti, due punti. Io cambierei tutti, ma non posso dirlo. Commento cosa non si fa per un titolo di giornale? Lo faccio così. Antimorattiano, commento antimorattiano. Che devi fare? No, così non è antimorattiano. Insomma, Moratti soffre in questo periodo perché non è la sua creatura, non è più sua, e quindi ogni tanto vuole dire qualcosa, è chiaro. Ma poi ci sarebbe di Italia pronta lunedì. Cruciani... lo pensava davvero anche quando era presidente, che avrebbe voluto cambiare tutta la squadra. Cruciani sta già ricevendo i primi bonifici. Intanto avete sentito lo squillo del telefono. Ciao Andrea. Borsa, poi torniamo 800 24 00 24, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori. Il Milan c'ha tutto, la tradizione, il carisma, ma purtroppo io ho fatto il liceo classico, è stata la mia rovina. Avessi imparato come fare dei bordelli a Shanghai, allora sì che avrei avuto una grande vita. Tutti convocati. Dunque, ecco il vice. Stiamo tornando. Sì, ragazzi, dai, che è andato, dai. Dove vai? Ma perché se fai sempre prezioso? Devo andare. Che prezioso, attaccato i poteri forti del paese, insomma. Arrivi qui, vai, fuoco e fiamme, viva la dittatura dell'Azerbaigian. Esatto, Azerbaigian. I giochi olimpici, adesso te ne vai. Sembri prezioso. Ho capito. Lancia il sasso e nasconde la mano. Bisogna anche lavorare, ragazzi. Lancia il sasso. Far finta di lavorare. Lancia il sasso e nasconde la mano. Ho lanciato il sasso, ma è perché è quello che penso. Tanto sai cosa ti dico? Tuo amico Ferrero ha comprato un giocatore. Cruciani. Chi ha comprato? Tanto ha comprato Joaquín Correa. Dall'Estudiantes 8 milioni, ne ha presi 6,5. Fantasista, ne ha presi 6,5 da Gabbiadini, ha subito investito quanto guadagnato. Grave errore la cessione di Gabbiadini, comunque. Grave errore la cessione di Gabbiadini, però io credo che è un campionato della Samp, dico, per quello. Beh, che... è una cifra fra l'altro non importante, ma non clamorosa. Sono 13 milioni, insomma, mi sembra 13? Sì, metà lui e metà la Juventus. Mi sembra un buon colpo del Napoli, sinceramente, che serve. 13 milioni non ha dimostrato nulla per adesso, signor Gabbiadini. Cioè, siamo a livello di un giocatore, è un buon giocatore molto promettente. Perché Okaka cosa ha dimostrato fin qui? No, ma infatti non sto dicendo che Okaka invece ha dimostrato chissà che, sto dicendo Gabbiadini, che con tutto rispetto per Okagone, secondo me ha dei margini. Okaka è arrivato adesso nella sua fase proprio di maturità, di completezza. A 25. Sì, ma sono 13 milioni. E a 25. Non stiamo parlando di Bruscolini. Vittorio Pistoia, buongiorno. Buongiorno, sentami, scusi, io sono, le dico subito, ho 63 anni e sono juventino, però non sono juventino malato, come si suol dire. Dunque, io veramente continuo a meravigliarmi di tutte queste polemiche romanisti, juventini, cioè veramente, perché se si va a guardare il pelo nel lobo. E poi un'altra cosa, ma io sono juventino, ma a me mi sembra che non abbia fatto gli acquisti giusti, nel senso, e bisogna far gol quando si gioca il pallone. Con un tappo e un altro tappino e non si può andare avanti. E chi è il tappo e il tappino? Tevez. Il tappo, uno è Giovinco e uno è Coman, anche se ha grandissime margini. Coman è entrato. Coman no, appena visto, no, mi qui. Faccia finire, mi faccia finire. Io sto parlando per una squadra che ha ambizioni di voler andare molto in Champions, va bene? Allora, poi far giocare, infatti, infatti lo dimostrano. Tevez l'hanno fatto giocare in continuazione. Fatto sta che le ultime due partite non prendeva nemmeno niente, ed è umano, ed è giusto che sia così. Beh, cioè, gioca perché è più forte della Juventus. Come, prego? Gioca perché è più forte, è al più forte, al capo giocatore non rinuncia nessuno. Abba pazienza, io l'ammiro, però abba pazienza, ma però bisogna anche una persona può essere forte quanto vuole, ma non può giocare sempre, tanto è vero anche con la Sampe, poi dicevo io, anche a centrocampo, Pirlo, giustamente, ma Pirlo non può giocare in eterno, e difatti domenica ci voleva un suo sostituto, ma io sto parlando in previsione della Champions, non parlo tanto per il campionato. Sì, sì, ma insomma, che la Juve sia una squadra perfettibile. Volevo però sapere qual era il pelo nell'ovo cui lei faceva riferimento all'inizio. Cioè, il pelo nell'ovo glielo spiego io, se mi date tempo. Allora, sì, siccome il signor Garcia, che io ammiro, e posso dire che io guardavo più la Roma che la Juventus, che mi piaceva come giocava, che io sono sportivo, molto sportivo. Allora, si va a vedere tre gol. Siccome domenica il telecronista disse la palla è stata messa 2 centimetri, 5 centimetri fuori da annullare, allora c'era da annullare. Quando è venuto il rigore per la Roma a Torino non c'era la punizione. Ma che si va a guardare queste cose? Guarda, io non so se lei l'ha vista con me o con Trevisani, che era il telecronista di Sky. Quello è il classico episodio che se uno non lo fa notare... veramente, poi a quel punto viene, allora, no, viene accusato di fare una censura. Io ho capito cosa vuol dire. Quello è l'episodio. No, ma io no. Poi io non ce l'ho mica con i giornalisti. No, forse ce l'ha con Garcia che combatte questa battaglia mediatica, ma dal suo punto di vista fa anche bene, perché il gioco è fin troppo evidente. Fa anche bene, ma bisogna anche dargli, cercare di dirgli calmino, fargli vedere anche ciò che perché, è stato. No, ma l'abbiamo, ma sì, anche nelle sue parti fa. No, ma sono d'accordo. Pure Allegri si è lamentato perché i 3 minuti di recupero erano già pochi e poi sono diventati 2,50 perché Doveri è fischiato dal 2,50. Alla fine della partita, quello che voglio dire è che sono schermaglie dialettiche da una parte e dall'altra. Questa giornata di campionato dimostra per l'ennesima volta che alla fine rosicano, piangono e protestano tutti. Va bene, ma fa parte del gioco, non c'è niente di male. È un legittimo tentativo di tenere alta l'attenzione mediatica, certo. di spostare la pressione, su altre cose. Queste due squadre sono due squadre meravigliose. Ma di che dobbiamo discutere? Sono due squadre meravigliose che stanno dominando il campionato, che danno la sensazione di poterci regalare un duello fino alla fine bellissimo. E chiaramente c'è anche questo aspetto di guerriglia psicologica, di guerriglia dialettica. Fa Bruciare parte del d'accordo. Gioco. No, ma io sono d'accordo con Pardo. In questo caso sono d'accordo con Pardo. Ma sai, lui è pacifico, non gli piacciono le guerriglie dialettiche, certo. Conduce un programma pacato, però voglio dire, in assoluto fa parte delle regole del gioco, ma pure Mourinho è così. Poi ci sono altri allenatori, ieri sera abbiamo avuto al telefono Ancelotti è uno che, insomma... No, c'è una cosa da dire. Però anche Ancelotti qualche polemica della sua vita l'ha fatta, non è che non l'ha mai fatta. Ecco, bisognerebbe appuntarsi però le frasi che vanno davvero fuori dalle righe. Così, come memento, come ricordo, come post-it. Allora, se dovesse succedere quello che molti tifosi della Roma si augurano, non è che saranno sicuramente toccando ferro, eccetera, eccetera, la frase di Totti detta nell'immediato dopo Juventus-Roma, ecco, quella va scolpita nella pietra. Questo è chiaro, no? Perché poi è evidente che le schermaglie è giusto che ci siano, Garcia fa un'intervista all'Equipe in cui dice noi dovremmo essere 2 punti avanti perché eccetera eccetera, però quando poi uno dice, come è successo il 5 ottobre, è impossibile vincere, non vinceremo mai nulla eccetera, e poi dice invece adesso siamo in corsa, stiamo rincorrendo e tutto, poi... Ecco qua, il signor Totti che chiama, no, il signore dell'ambasciata è l'Azerbaigian. È l'Azerbaigian, è chiaro. Beh, comunque quella frase di Totti si colloca in questo quadro, colloca in un quadro di adrenalina, è una frase certamente inopportuna, non mi pare sia fuori gioco la Roma dal campionato, no? Ma non mi pare sia fuori gioco, tutt'altro, molti le indicano oggi come favorita, ma assolutamente, ma è bellissimo, volate un campionato con una squadra in testa, ma è bellissimo così, dai, è anche divertente che ci sia un po' di ciccia mediatica, poi una volta l'episodio da una parte, una volta l'episodio dall'altra, ma basta evidentemente non avere gli occhi foderati di Camon Iberico. Allora, dopo il traffico, Elton da Brescia. Serrano. È il signor Elton. Tutti convocati. E a proposito di dichiarazioni distensive, ce n'è una di Baldissoni, abbiamo detto, della squalifica di Garcia. Due giornate perché avrebbe rifilato uno schiaffone ad uno steward nel sottopasso di Genova, nel sottopassaggio di Genova, dove qualcosa evidentemente è successo. Dichiarazione distensiva di Baldissoni, squalifica di Garcia. Siamo al grottesco, sfioriamo il grottesco. Se sarà necessario usare la clava, lo faremo. Boh. Elton. Baldissoni, dove... La clava, che vuol dire la clava? Da che punto di vista? Sì, arriva. Elton da Brescia, buongiorno. Buongiorno signori, dica. Un saluto anche a Pardo e a Cruciani. Però a Cruciani, prima di intervenire, vorrei fare un'osservazione. Riguardo ai dittatori, starei un pochino attento, visto che l'ho vissuto in prima persona con mia famiglia e mio padre, e vengo da un paese di dittatura, insomma, Albania. Dunque, io volevo intervenire sulle Olimpiadi. L'Italia ha tutto per farcela. Certo, servirebbero alcuni aggiustamenti sulle regole, perché non è possibile che quello che vediamo a Roma o a Milano o magari anche al Mosa a Venezia sia dappertutto. Può darsi che questo sia anche il momento buono per mettere un pochino mano su certe regole, appalti e via dicendo. Però l'Italia ha tutte le possibilità per farcela. Sì. Proprio ieri sulla vostra radio sentivo su Simone Spezia che aveva chiamato un professore di Bocconi e gli chiedeva una certa incidenza sui guadagni e spese. Questo professore diceva che dunque, facendo le Olimpiadi solo a Roma ci sarebbe una spesa di un euro e un guadagno di 1.6 o 1.8. Sì. Sono calcoli e molta teoria. Io credo che di occasioni o di possibilità ce ne siano state tante, non siamo mai riusciti a sfruttarle, non so se questo è il momento ideale. No, ma sicuramente è un momento di difficoltà, è un momento di però è anche vero, scusa, torno sull'argomento, che proprio in un momento di difficoltà, ho una vecchia laurea in economia e commercio che ormai avrà zero valore, insomma, però è proprio nei momenti di difficoltà che l'economia può aver bisogno di un impulso, e quindi magari da questo punto di vista le Olimpiadi potrebbero, non lo so, rappresentare un'opportunità. Se uno comincia, l'errore peggiore che mi hanno insegnato nel business che possono fare le aziende, quando le cose non vanno bene, è smettere di investire, perché significa morire lentamente, ecco. Poi magari le Olimpiadi non sono un investimento giusto da fare, io questo non lo so, però insomma in generale dal punto di vista, ripeto, psicologico, la cosa peggiore che ti insegnano è che se sei in difficoltà evidentemente non smetti di investire, questo è sbagliato. Cosa ti risulta, Pardo, di questi tre postulati relativi al Napoli? Adoa, De Laurentiis, ma questo sì, è una voce che rimbalza da tempo. Adoa, De Laurentiis potrebbe dare l'annuncio della vendita del Napoli. 1-2, Benitez potrebbe fermarsi a Doha nel caso in cui non vincesse la Supercoppa italiana, e c'è un'evidente freddezza, mi sembra, tra l'allenatore e la sua squadra o parte della sua squadra. 3, primo un ascoltatore scrive: Balotelli per Higuain, manca solo l'ufficialità. Beh, questo mi sembrerebbe veramente, veramente clamorosa, ma insomma il momento è complicatissimo. La partita dell'altro giorno è stata veramente sconcertante, la peggiore partita dell'anno, probabilmente anche la migliore partita dell'anno del Milan, le due cose hanno coinciso, però, però veramente, insomma, il Napoli di solito le partite importanti, le grandi partite, le partite nei grandi stadi, quelle con avversari che non si chiudono, con una certa adrenalina, le giocava bene anche quest'anno. Napoli-Roma è stata una partita perfetta da questo punto di vista, quindi, quindi Doha secondo me è tutt'altro che scritta, però certo se l'atteggiamento è quello dell'altro giorno diventa tutto molto complicato. Su Benitez sicuramente c'è uno scollamento, è in, mi sembra in uno stato di limbo in cui non è confermato, non ha il contratto rinnovato, qualche mugugno c'è, e quindi è questa situazione che spesso non fa il bene delle squadre, no? Perché, perché o gli dai forza come società oppure stacchi la spina e decidi di fare altre scelte. C'è questo possibile remake di 4 anni fa a Abu Dhabi, partita dell'Inter, stiamo parlando più o meno di quei paesi quando lui vinse il mondiale per club e si fermò lì, e vedremo. Fra l'altro approfitto anche qui, ve l'ho fatto stamattina, ieri c'era uno schermone con scritto una chiavica a Tiki-Taka, siccome la parola scusa diciamo che io la pronuncio con grande serenità, so che qualcuno si è offeso, ovviamente il riferimento era alla partita del Napoli l'altro giorno, volevamo fare una battuta che effettivamente gergale. È stata una chiavica. Sì, vabbè, volevo fare una battuta gergale napoletana, onestamente, che, insomma, siccome qualcuno si è sentito offeso, io che poi alla fine faccio il, no, come il bigliettaio, no, il, l'autista dell'autobus, se il finestrino è aperto, ed è, chiedo scusa, quindi ci mancherebbe altro. Ma cioè, non voleva chiedere scusa, mi sembra esagerato. Vabbè, ma non voleva essere denigratoria, ecco, insomma, se, se qualcuno si è sentito offeso questo, mi dispiace, perché non c'era assolutamente nessun intento, era un riferimento alla partita dell'altro giorno, che ripeto, è stata una partita veramente sconcertante, perché io credo che nella storia del Napoli questa stagione veramente qualcosa di simile non si sia mai visto. Si sono viste grandi amnesie difensive contro piccole squadre, o meglio piccole, e questo è un problema. Si sono visti degli errori. Udine fu molto brutta all'inizio della stagione, però la, la sensazione veramente di pochezza, di scollamento dell'altro giorno è preoccupante. Beh, abbastanza una chiara. Secondo me non succede, Napoli, non succede non succede nessuna delle tre cose che hai detto prima. No? Comunque, no, nessuna delle tre cose. Nemmeno cioè, su Benitez? La cessione della società, non sono in condizione di, così, di prevederlo. Non credo che verrà annunciata ad hoc la cessione del Napoli, magari l'entrata di qualcuno, non lo so. Non, questo è praticamente, secondo me, non accadrà. Benitez che si fermi a Doha, conoscendo De Laurentiis, mi sembra altamente improbabile. Credo che De Laurentiis, da quando è a Napoli, abbia forse allontanato prima solamente Reia, per Donadoni forse, non ricordo bene. Anche Mazzarri viene preso in corsa. Forse sì, Reia, Mazzarri sì. Per Reia, o no, Mazzarri per Donadoni. Forse Reia, sì, una comunque non è un presidente avvezzo ai licenziamenti, agli esoneri, e non credo che questo avverrà anche in caso di sconfitta, di doppia sconfitta, perché con chi gioca la Juventus adesso? Napoli. C'è Napoli-Parma, c'è Napoli-Parma giovedì, e poi c'è la Supercoppa. Sulla carta sembra la partita ideale, sulla carta, esatto, per poter arrivare. Dopodiché credo che la Supercoppa, chi se ne frega. Io, molti giocatori credo che restino in vacanza da quelle parti. Ecco, e poi scusa, poi proseguo su Doha. Higuain, Balotelli, 100% non accade. Comunque Higuain non andrebbe a Liverpool. In ogni caso, Doha, la follia dell'organizzazione di questa roba, la vogliamo sottolineare? Ma tu cioè, vuoi farla in Azerbaijan? Cioè, no, ragazzi, ma il 23 dicembre, quando è? Il 23? 22. Sì. Il 22 o 23 dicembre, con i giocatori, molti mi hanno detto che restano lì, molti giocatori della Juventus mi hanno detto che restano lì per sì, poi trasferirsi alle Maldive eccetera, o da altre sì, parti. In una situazione in mezzo al campionato, se la Supercoppa ha un senso, e comincia ad avere sempre meno senso ovviamente, è la terza o quarto obiettivo stagionale, forse non è nemmeno un obiettivo, ma allora ha un senso comunque ad agosto, un giorno qualsiasi di agosto, quando ancora c'è un po' di adrenalina, devi vincere il primo trofeo. Quest'anno c'era il preliminare del Napoli, c'era il preliminare del sì, Napoli, lo so, che andava ovviamente rispettato. Sì, vabbè, ma il preliminare del Napoli va benissimo, cioè, no, c'è ma è una partita calendario. Ma chi se ne frega, ma la fai ad agosto questa partita, quella fai inizio stagione come tutti, perché in Inghilterra non si pongono questo problema e la fanno comunque? In Italia ci sono sempre mille cose così, per avere un senso questa roba qui deve essere ad agosto, altrimenti è meglio non ma farla. La vendi, l'hanno venduta a Doha, l'avevano venduta a Pechino, ma l'avrebbero venduta lo stesso a Doha anche ad agosto, il punto non è quello, a Pechino dopo. Il problema è che non ha alcun senso agonistico, e dunque farebbero bene sia Juventus che Napoli a giocare con le riserve. Vabbè. A giocare con le seconde linee. Che teoria è? È no, una coppa, è la finale, è una coppa. Per il Napoli c'è una rivalità profonda fra queste due squadre, dai. Non... No, no, no, con i giocatori già in vacanza, pericolo infortuni, perché cosa? Per una Supercoppa. Una cosa è inizio stagione, dove comunque, no, a inizio stagione è il primo trofeo della stagione e quello ha un senso psicologico. Ma arrivare il 23 dicembre con una delle due squadre, cioè tu rischieresti un infortunio per vincere la Supercoppa italiana il 23 dicembre a Doha? Ma di che stiamo parlando? No, dai. Però insomma, è chiaro che Higuain e questi altri non è che si impegneranno al massimo, perché infortunarsi a Doha prima delle vacanze in attesa di andare alle Maldive per la Supercoppa italiana in mezzo a una stagione un po' travagliata, dici no. Secondo me non ha senso. Per me è una grande partita, e il fatto che sia Juve-Napoli con tutto ciò che rappresenta, ovviamente anche in termini di rivalità, secondo me la rende ancora più importante. Ragazzi, chiudiamo qui, grazie Giuseppe, ciao, Cruciani, ciao. Olimpiadi dunque in Azerbaigian. Ciao Franco Piantanino, il nostro autore, e Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Ciao. Posso avere una bottiglia d'acqua? Lei non è Peter LaFleur? Lance Armstrong. In persona, sa, sono un suo grande ammiratore. Su serio? Sì, ho seguito il torneo di dodgeball su ESPN8 e mi piace da morire. In bocca al lupo per il torneo, io tifo per voi contro quei deficienti della Globo Gym. Ma io penso si debba sbrigare o farà tardi. Veramente ho deciso di mollare, Lance. Mollare? Sa, una volta anch'io avevo pensato di mollare quando mi hanno trovato un tumore al cervello, ai polmoni, ai testicoli, tutto insieme. Ma con l'amore e il sostegno degli amici e della famiglia sono tornato sulla bicicletta e ho vinto il Tour de France per 6 volte di seguito. Ma sicuramente lei ha un'ottima ragione per mollare. Allora, di cosa sta morendo che le impedisce di giocare la finale? In questo momento direi che sta morendo di vergogna. Credo che se una persona non molla mai quando la situazione è dura, non avrà nulla di cui pentirsi per il resto della vita. Comunque, buona fortuna. Sono certo che questa decisione non la ossessionerà per sempre.